Ricordate, la formula può essere riscritta come 50 newton è uguale a massa per 10 metri su secondo quadrato. Date queste informazioni. Qual è il valore della massa?